E si riparte in questo venerdì che apre le porte al weekend. Oggi a chi fa da sé fa per te voglio un po' sperimentare, sì, voglio sperimentare un nuovo modo di raccontare quello che poi è il vero protagonista del programma, e cioè l'ospite che di volta in volta racconta le proprie storie di quotidiana sopravvivenza. E la storia di oggi è quella di un uomo armato di grande passione e talento. Classe 84, durante gli studi classici, partecipa alla fondazione del collettivo teatrale Maelstrom, realizzando una serie di performance di teatro abusivo. Sviluppa quindi in questi anni una passione anche verso la pittura e la fotografia, e sempre però con finalità performative. Così, terminato il liceo classico, entra nella scuola, pensate, di teatro d'arte di Mosca, in cui ottiene anche una laurea con lode, tra l'altro, come attore, e numerosi premi. Però diciamo che in questi anni di permanenza in Russia recita numerosi spettacoli e realizza il suo primo lavoro di regia, perché oltre ad attore è anche regista, Crux Fidelis, liberamente ispirato a Delitto e Castigo di Dostoevskij. Questi sono anni di crescita e sono veramente tante le collaborazioni nei festival anche di teatro contemporaneo italiano. Insomma, sto parlando di Teodoro Bonci del Bene, e sarà lui il protagonista di oggi a Chi fa da sé fa per te. Ovviamente il percorso di Teodoro non si ferma qui, anzi andiamo verso un'evoluzione, perché nel 2010 fonda a Rimini la compagnia Big Action Money, e qui apre lo spazio che porta lo stesso nome e debutta proprio con Big Action Money Performance Parting Things, che poi sarà lo spettacolo vincitore del bando Experience 2010. E questa è una compagnia teatrale che inizialmente sperimenta una commistione tra feste abusive e arti performative, però diciamo che i primi lavori della compagnia sono proprio un punto di incontro tra performance, quindi abbiamo musica elettronica, live painting, teatro tradizionale, una commissione, poi c'è la svolta. Nel 2013 incontrano Ivan Viripaev, che è un giovane drammaturgo protagonista del teatro contemporaneo russo, e inizia così una nuova fase per questo gruppo, che inizia proprio a dedicarsi al teatro di parola. Inizia così, grazie anche al sostegno dell'Alboreto, il Teatro di Mora di Mondaino, un nuovo progetto. Allora, in ordine cronologico, abbiamo nel 2015 Illusioni, nel 2017 Ossigeno recentissimo, e nello stesso anno inizia la collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione, realizzando un bellissimo spettacolo basato sul testo di Tiago Rodriguez, Gioie e dolori nella vita delle giraffe. Ed è proprio questo lo spettacolo di cui parleremo oggi, che ha debuttato al Teatro delle Passioni di Modena e lo troverete all'Arena del Sole in scena fino all'8 febbraio. Gioie e dolori nella vita delle giraffe è sicuramente una fiaba in questo senso, una favola un po' straniata e straniante che gioca sui contrasti e le disarmonie e anche gli opposti che poi caratterizzano la nostra realtà. Ma chi è questa giraffa? Cosa fa questa protagonista? In realtà Giraffa è una bambina di 9 anni e un po' troppo alta per la sua età, e devo dire che questa cosa un po' mi suscita delle emozioni visto la mia altezza, e deve svolgere un compito, fare proprio una ricerca sulle giraffe, e attraverso questa ricerca che inizia poi un vagabondaggio nella Lisbona di oggi, di sempre, ma anche di mai, in realtà un non luogo che Teodoro riporta però all'interno di un parcheggio. Allora, visto che io sono riuscita a intervistarlo, chiediamo direttamente a lui perché ha scelto proprio un parcheggio. Parcheggio nasce in maniera, diciamo, autoriale, non è previsto dal testo. Diciamo che leggendo il testo ho avuto la sensazione che Rodriguez stesse parlando di personaggi che sono un po' parcheggiati lì, cioè persone che si trovano in un luogo che non ha vie di fuga, non ha sbocchi, non ha prospettive e non... in un certo senso non ha neanche tanta poesia. Che, secondo me, il testo parla un po' di persone che sono state un po' dimenticate, forse, emarginate, lasciate in un posto, lì. personaggi di cui stiamo parlando sono un padre disoccupato, cioè è un artista, è un attore che però non ha lavoro, non trova da lavorare, un vecchio che ha una pensione così bassa che gli permette soltanto di comprare minestre in scatola, un poliziotto che non ha niente di meglio da fare che dar fastidio alle persone e ribadire il suo avere potere sulle persone grazie alla divisa che gli hanno fornito, piuttosto che un bancario frustrato che è stato mollato, insomma, che non ha più famiglia e che è lì e che a sua volta gode del potere che ha nei confronti dei clienti della banca, eccetera. Quindi sono personaggi anche non prettamente positivi, non tutti, e che stanno lì, non hanno prospettive di vita, non hanno obiettivi nella vita o sogni da realizzare, stanno lì proprio apparcheggiati, effettivamente. È anche interessante la scelta di voler costruire, quindi dare vita ai personaggi basandosi su delle subculture precise del Novecento. E anche qui cosa ha guidato queste scelte precise? Un po' l'istinto. C'era la voglia di lavorare su quattro personaggi che potessero diventare delle icone, che fossero un po' la sintesi di alcune fette della società. E quindi in un certo senso sono quattro micromondi, cioè ognuno di loro è la sintesi di una qualche comunità, per cui c'è questa idea dello skinhead, però è l'idea di un mondo più proletario, arrabbiato contro la società, più attento a dinamiche, insomma, problematiche sociali, diritti di una certa classe sociale che sta sempre sotto, ma che non ne può più. Il padre che ha questa connotazione glam rock, che in un certo senso è più un mondo molto poetico, legato anche a una certa poesia, magari più legata agli anni 60-70, quindi qualche cosa che da una parte è legata agli eccessi nelle abitudini sessuali piuttosto che nelle abitudini comportamentali, o il bere, il fumare, insomma. Però dall'altra parte è anche un mondo che ha una grande sensibilità, che ha una grande poesia, una poesia forse ruvida, che ha anche secondo me una certa spiritualità. È un mondo per me, diciamo, questo personaggio racchiude in sé queste cose che abbiamo detto, però che non risulta mai superficiale. E infatti l'attore che interpreta questo ruolo ha anche un'età, tutti gli attori in scena hanno più o meno la stessa età, circa 30 anni, invece lui anagraficamente è più grande e quindi forse anche più consapevole, e il fatto di essere più libero anche nel modo di comportarsi e di vedere la propria vita non è in contrasto con il fatto di forse sentire di più. Anzi, forse le due cose sono collegate. Il personaggio di Giraffa è un po' più ibrido, perché parlavamo di subculture, nel suo modo di vestire, comportarsi, c'è qualcosa che viene dal mondo del punk, di una rabbia giovanile tutta fuori, no? Tutta esternata, però anche degli influssi più da ghetto. Per esempio in lei c'è un'attenzione, secondo me, anche al modo di vestire, è l'unica che è truccata. Sì, poi il problema è come viene percepita, come si inserisce nel mondo. Il suo problema, secondo me, è quello di accettare la situazione in cui è, di farsi accettare dalla situazione, quindi accettare anche la sua situazione familiare e farsi accettare dai membri della famiglia che le rimangono, che fondamentalmente il padre, perché la madre è morta. E l'ultimo è Martin, che è un ragazzo nero dello Zambia, che lavora molto come attore in Italia. Il suo personaggio in effetti è quello di un nero cool che viene sempre dal mondo della musica. Ovviamente c'è un piccolo cliché, è associato al mondo hip hop, però anche poi vediamo nel suo personaggio quello che succede sulla scena, il suo conflitto invece è con il potere. E infatti lui si trova sulla scena a interpretare vari ruoli, che sono tutti ruoli di persone che hanno potere, quindi i poliziotti, il primo ministro, quindi potere politico, poi ha un flirt abbastanza spinto con la protagonista, però anche lì c'è sempre un rapporto di potere, perché comunque anche nelle relazioni sentimentali sappiamo benissimo che c'è sempre un gioco di potere sotto, insomma, purtroppo spesso si attivano dinamiche legate a qualche potere. Refugee camp conspiracy theory, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Insomma, c'è sicuramente un divertimento nel tessere un gioco di codici e anche di parole, e quindi verbale e paraverbale all'interno dello spettacolo. Un percorso anche socioculturale, come appunto abbiamo sentito anche dalle parole di Teodoro, dove si vanno a inserire le varie subculture del Novecento, sicuramente quelle che hanno lasciato di più il segno. E possiamo per esempio partire dalla fine degli anni 60, periferia inglese, da qui i giovani proletari, criticando poi il progressivo imborghesimento della working class, iniziano a rasarsi la testa, indossare bretelle, blue jeans e scarponi da lavoro. Nasce il movimento degli skinhead, a cui appunto si ispira il personaggio di Judy Garland, che poi sarebbe l'orsacchiotto della piccola giraffa che prende vita in modo anche molto ironico per esprimere tutta la sua rabbia. Quindi anche in questo senso le teste rasate dell'epoca ripudiavano lo stile di vita aristocratico, quindi è più vicino ai temi legati al lavoro in fabbrica. Si aggrega ad altri skinhead per ascoltare musica ska, musica reggae, e questo è una parte di un personaggio che va a supportare questo tipo di identità. Poi abbiamo dall'America glam e punk rock dei primi anni 70, quella appunto di David Bowie, che intanto sta producendo l'album di esordio di Lou Reed, quella del Lower East Side di Manhattan, quella dei Television, dei Ramones, di Patti Smith. Invece qui arriva la figura del padre-madre, della bambina di giraffa, appunto, che ha questo appunto atteggiamento un po' borderline, costumi androgini, make-up, parrucca e una presenza scenica molto importante. E dallo stesso periodo invece più a nord, dal Bronx in fiamme, anche dalla cultura afroamericana, si inizia a far sentire la propria voce anche grazie ai block party, alle feste di strada, dove i b-boys e le flash girl ballano la break dance, e poi anche la parte rappresentativa della subcultura invece dell'hip hop, insomma sicuramente dei pilastri di riferimento e persone strane, molto strane. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange, when you're